Ogni vera relazione non può prescindere dal modello di relazione esistente nel diottrino. È vero che vi sono dei rapporti che collegano in maniera essenziale o accidentale due o più cose, come una mela che cadendo tocca per terra, o un animale che ha un rapporto sessuale con un suo simile, ma queste non possono essere definite relazioni nel senso proprio del termine, perché possa esistere una vera relazione oltre il lato fisico, quello di una mela, e quello dei sentimenti e volontà, l'animale, occorre anche un terzo elemento. Esso si trova solo nell'essere umano. Fu infuso da Cristo nell'uomo quando egli lo creò a sua immagine e somiglianza, stiamo alludendo allo Spirito. Secondo la dottrina cristiana tramandata una volta per sempre, nella divinità, pur trattandosi di una natura divina eterna, sussistono tre persone. Dio è uno, ma non è solo. Dio è trino, diversamente, non è. Proprio per questa peculiarità, all'interno della divinità sussiste una relazione unica ed eterna. Relazione che rivela le caratteristiche di ogni persona che si trova al suo interno, ognuna delle quali è ben distinta dall'altra, per quanto sussistente nella stessa natura. La persona del Padre non è quella del Figlio e dello Spirito Santo. La persona del Figlio non è quella del Padre e dello Spirito Santo. La persona dello Spirito Santo è distinta da quella del Padre e del Figlio. Proprio perché vi è un solo Dio in tre persone, è possibile che in seno alla Trinità vi sia un rapporto, perché se Dio fosse uno nel senso assoluto, se non vi fosse l'alterità di un'altra persona alla quale relazionarsi, non vi sarebbe relazione, ma solo sussistenza. Così, quando si afferma che Dio è amore, questa dichiarazione ha la sua ragion d'essere, perché in seno alla divinità vi sono l'amante. E l'amato aventi le caratteristiche di ciò che ognuno è, la persona del Padre è il Padre, la persona del Figlio è il Figlio, la persona dello Spirito Santo è, per una certa teologia, la Madre. Così è per tutte le definizioni attribuite a Dio, pietoso, clemente, santo, giusto, eccelso. Definizioni, queste, che non avrebbero senso se non fossero rapportate a ciò che è o si presenta come altro. Senza l'altro, un diverso, anche se partecipe della stessa natura, nessuna definizione ha senso. E, come dire che esiste il bianco. Se non ci fossero altri colori, il colore non esisterebbe. Se non ci fosse il buono, il cattivo non avrebbe senso. Perciò, se vogliamo comprendere in che cosa consiste una relazione, dobbiamo considerare e vivere ogni nostro rapporto che rispecchi il modello delle relazioni esistenti nella Trinità. L'interazione di armonia e di amore esistente in seno alla Trinità fa sì che il Dio dei cristiani sia unico rispetto ad ogni altra divinità umana creata dagli uomini e che sia l'unico modello al quale la creatura possa rifarsi. Un esempio che il Dio trino sia unico lo vediamo nella religione dell'Islam. La religione riguarda il rapporto tra il finito e l'infinito, la relazione tra parti, che sono essenzialmente diverse. Dove il concetto dell'alterità è eliminato, vi sono due possibili esiti. Possiamo trovare un infinito che è quasi umano e che può essere afferrato dalla ragione umana, come nel sistema greco, o l'infinito che è totalmente altro, che è inaccessibile da comprendere. La divinità dell'Islam, Allah, è solo, non vi è pluralità in lui, non è plurale in se stesso e non può essere associato a nessun altro. Perciò non ha nessun rapporto nel corso dell'eternità, come il Dio trino dei cristiani. Per Allah non esiste alcun altro con cui potrebbe interagire. Senza relazione eterna, la divinità dei musulmani non è e non ha amore in se stesso, ma lo sarebbe diventato nel momento in cui creò una creatura, creatura tra l'altro non fatta a sua immagine. Allah, come tutte le divinità create dagli uomini, è dunque un Dio imperfetto, incompleto, limitato, perché avrebbe bisogno della creatura per essere un Dio di amore. Se per amare è indispensabile l'amante e l'oggetto da amare, allora Allah non è un Dio di amore, ma, casomai, lo è diventato. E se lo è diventato, deve rendere grazie all'uomo perché a sua volta lo avrebbe amato. Infatti, una relazione esiste quando l'essere partecipi è reciproco, diversamente è solo partecipazione. E come un dialogo. Esso esiste solo quando due si scambiano le opinioni, diversamente è un monologo. Ma come può amare un essere umano la sua divinità se questa è totalmente altro, infinita, impenetrabile? Come può una creatura possedere uno spirito di amore come quello del creatore? E impossibile secondo la dottrina islamica, mentre è possibile secondo la rivelazione del Dio Trino. La caratteristica più rilevante di una persona è di essere in rapporto con altri, comunica, sceglie, agisce in rapporto con altre persone. Affermare che Dio è tre persone significa denotare che quelle persone sono in rapporto, è il rapporto di amore che unisce le persone. Così il Creatore non si è limitato a fare l'uomo a sua immagine e somiglianza, ma poiché il rapporto dell'uomo con lui si è interrotto causa il peccato, e peccato significa separazione. Chi pone fede in lui è partecipe della persona dello Spirito Santo affinché mediante una nuova natura possa avere una relazione con tutte e tre le persone della Trinità. Poiché ogni vera relazione non può prescindere dal modello di relazione esistente nel Dio Trino, anche il rapporto con il mondo in cui viviamo e i rapporti umani devono rispecchiare tale interazione. Si potrà pensare che poiché viviamo in questo mondo automaticamente abbiamo una relazione con il mondo che ci circonda, ma non è così. Se relazione in definitiva colloquio, partecipazione reciproca, come può un essere umano partecipare con la materia inerme? Egli può parlare alla materia morta, ma cosa può comunicare la materia morta all'uomo? Sembra niente. Eppure la parola di Dio afferma che il creato comunica ogni istante qualcosa. I cieli raccontano la gloria di Dio e il firmamento dichiara l'opera delle sue mani. Un giorno proferisce parole all'altro e una notte rivela conoscenza all'altra. Non hanno favella né parole, la loro voce non cesse, ode, ma la loro armonia si diffonde per tutta la terra e il loro messaggio giunge fino all estremità del mondo. Salmo 19, 1 a 4. Dunque, il creato ha una voce che non si ode, ma nonostante ciò racconta la gloria di Dio. Sta all'uomo penetrare la descrizione che il creato rende riguardo alla gloria del suo creatore. Tutti siamo partecipi del calore del sole, delle bellezze del tramonto, dei magnifici colori. Ma la maggioranza delle persone scorre le giornate senza rendersi conto di ciò che lo circonda. Si può terminare la propria esistenza senza aver gustato le bellezze del creato, senza avere avuto una relazione con la materia inanimata. Vi è ancora un'altra relazione che l'uomo non può ignorare, quella con gli animali. Essi non sono materia morta, ma anime viventi. Nonostante ciò, questo non è sufficiente perché l'uomo possa avere con gli animali un rapporto di comunicazione. Gli animali comunicano fra di loro, ma non hanno una vera relazione con gli uomini. È vero che ci è un certo rapporto con alcuni animali, ma rimane pur sempre staccato dall'umano. Con loro non si può ragionare. Eppure, la parola di Dio ha qualcosa da dirci. Ci sono quattro piccoli animali sulla terra, ma sono estremamente saggi. Le formiche, che sono un popolo senza forza, ma si procurano il loro cibo durante l'estate. I conigli, che sono un popolo debole, ma stabiliscono la loro dimora nelle rocce. Le locuste, che non hanno re, ma procedono tutte a schiere. La lucertola, che puoi prendere con le mani, ma si trova nei palazzi dei re. Proverbi 30, 24, 27. Dunque, anche gli animali hanno il loro messaggio per interagire con l'uomo. Sta a noi percepire la loro voce per avere una relazione. Vi è pure da considerare un rapporto più profondo per ogni creatura, cioè quello umano. Purtroppo l'esperienza insegna che nella maggioranza dei casi tra gli esseri umani non si va oltre che una melensa convivenza. È vero che ogni giorno, ogni momento si vive a contatto con gli altri, ma simili rapporti non vanno oltre a ciò che è pragmatico, accademico, quel tanto necessario per una vita in comune. Eppure l'uomo è stato creato per avere una relazione con il suo prossimo. Per cui se non raggiunge questo obiettivo, ha fallito nel profondo del suo essere. Anche la relazione matrimoniale, che dovrebbe essere una delle relazioni più profonde rappresentante della relazione trinitaria, è spesso vissuta a livelli di un egoismo estremo, e dove vi è egoismo non vi è partecipazione-relazione, non è sufficiente abitare sotto lo stesso tetto, non è sufficiente fare sesso, perché relazione umana significa partecipare alle cose profonde dello spirito, oltre all'anima e il corpo, e di questo pochi sposi ne fanno esperienza. Molti sposano se stessi, non un'altra persona, con la quale relazionarsi. Perché una relazione presuppone impegno, sofferenza, la capacità di aprirsi senza vergogna o timore, dato che dove vi è una relazione d'amore non vi è paura. Infine, rimane da considerare la relazione per eccellenza, la relazione delle relazioni, cioè la relazione con il Dio Trino dei cristiani, l'unico Dio, l'unico che si relazioni con se stesso e con le sue creature, benché esso si sia definito l'Eccelso, l'Alto, Isaia 57, 15, benché nessuno sia simile a Lui, Isaia 46, 9, egli è in grado di relazionarsi con gli uomini perché uno dei tre si è fatto uomo a tutti gli effetti. Pur rimanendo divino, Cristo Gesù ha assunto la natura umana per potersi relazionare con gli uomini in tutto e per tutto. Con la sua natura umana Gesù era in relazione con la Trinità e morendo in croce per togliere il peccato ha dato al genere umano la possibilità di avere relazione con la santa divina relazione trinitaria, essere stati creati ad immagine del Dio Trino, essere partecipi della natura trinitaria, sono doni inestimabili, ma l'essere partecipi della relazione esistente nel Dio Trino è una grazia che pochissimi hanno compreso e realizzano. Se eliminiamo il concetto di rapporto, di relazione, cosa rimane all'uomo? Senza relazione, senza alterità, non vi è amore né presa di coscienza, e un'esistenza senza vita, perché per vita si presuppone armonia, comunione, relazione. Così, l'essere umano esiste, ha vita, realizza l'amore quando si relaziona con la materia morta, con gli esseri animati, quando si relaziona con i suoi simili, ma soprattutto quando ha una relazione con il suo creatore, colui che è relazione in se stesso. Febbraio 2005. Contributo. Le relazioni interpersonali di Gesù, G.B. U. Martin Goldsmith. Ellero,